divisa calua, de la villa gaya, tuyuani a ti, guadawini, kenda gana di jastia, chinaguya. Divisa calua, de la villa gaya, tuyuani a ti, guadawini, kenda gana di jastia, oragini. Sabi si di nyana, china wine uyo andanina.